La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. L'articolo 38 riguarda la sicurezza sociale, cioè riguarda l'assistenza a favore delle categorie svantaggiate come gli inabili, gli infortunati, i malati, gli invalidi, i disoccupati. Cosa significa Stato sociale? Significa che lo Stato si prende il compito di tutelare anche le categorie svantaggiate, mediante non solo la salute, l'istruzione, ma anche con l'assistenza e la previdenza. Concretamente l'articolo 38 riconosce che a determinate categorie, cioè ai soggetti che subiscono infortuni, malattia, invalidità, vadano riconosciuti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Quindi un importante riconoscimento che lo Stato deve farsi carico di tutta la parte infortunistica, di tutta la parte assistenziale sul lavoro. Ma è interessante anche notare come fra le cause che abilitano l'intervento dello Stato ci sia la disoccupazione, disoccupazione involontaria, quindi coloro che sono stati licenziati, allontanati dal lavoro precedente, ma anche la vecchiaia, perché il Costituente si pone il tema delle pensioni. Per capire bene il tema delle pensioni dobbiamo tornare con la mente proprio a quegli anni, quando si arrivava in pensione al limite dei 60 anni e l'aspettativa di vita era molto bassa, per cui lo Stato, avendo di fronte una società che usciva da anni veramente duri di privazioni e di guerra, voleva riconoscere al lavoratore che arrivava al completamento della sua carriera, della sua vita, qualche anno di benessere, per cui pone anche la pensione di vecchiaia, quindi la pensione che si raggiunge a una quota di età, con mezzi adeguati alle esigenze di vita, in maniera da riconoscere qualche anno di riposo sereno dopo il lavoro. Ovviamente qui nasce tutto il problema della spesa pensionistica, perché questa applicazione di una forma di assistenza previdenziale adeguata a carico dello Stato negli anni ha fatto di molto aumentare la spesa pensionistica. Oggi sappiamo che la prima voce della spesa pubblica per quasi 250 miliardi riguarda proprio la spesa per le pensioni. E in uno Stato che comunque deve guardare in maniera più complessiva le esigenze di bilancio è sicuramente divenuto un problema. Problema che è stato affrontato già anni fa con la famosa legge del 1995 che ha trasformato il sistema previdenziale, il sistema pensionistico da retributivo a contributivo. Per completare il disegno costituzionale abbiamo anche il quinto comma, l'assistenza privata e libera, che consente e prevede in maniera libera tutte le forme complementari e aggiuntive di previdenza e di assistenza, proprio sapendo, e qui ancora il Costituente presbite che guarda lontano, che non poteva essere sempre solo lo Stato a far fronte alle esigenze di anziani infortunati, malati, disoccupati, ma che delle forme integrative private dovevano essere quantomeno dichiarate libere in maniera da poter sussidiariamente contemperare l'intervento dello Stato.